Incontri di Gianfranco Fabi. Con la musica degli Special H dedicata a Nelson Mandela, abbiamo salutato per l'ultima volta qualche settimana fa la grande personalità sudafricana. Iniziamo l'incontro di questa sera con il professor Leonardo Becchetti. Buonasera Becchetti. Buonasera. Perché Nelson Mandela, Leonardo Becchetti? Solo un omaggio a una grande personalità di cui si è parlato molto nelle ultime settimane? Ma perché Nelson Mandela è all'origine di un fenomeno, secondo me, importantissimo dei nostri tempi, che è quello del nuovo protagonismo della società civile. Una cosa che a me ha colpito moltissimo nel ricordo di Mandela è l'intervista in bianco e nero a delle semplicissime commesse irlandesi che a un certo punto decisero di non vendere più i prodotti sudafricani perché non se la sentivano, per protestare contro l'apartheid. È proprio da quei giorni che nasce un fenomeno importante dei nostri tempi, che è il voto col portafoglio, cioè quella sovranità dei consumatori rinnovata, che decidono di usare il potere che hanno negli acquisti e nei risparmi per premiare o per punire aziende o paesi che sono socialmente e ambientalmente responsabili o irresponsabili. La finanza etica nasce proprio in quei tempi, con i primi fondi che decidono di disinvestire dal Sudafrica, e poi tutto questo mette in moto dei movimenti importanti, e lo stesso Mandela riconosce che la sua uscita dal carcere dopo 27 anni è stata aiutata moltissimo da questo cambiamento economico che ha sgretolato progressivamente l'apartheid. E quindi l'economia è come una scienza che studia le scelte e a invitare la gente a scegliere. Leonardo Becchetti, non l'ho presentata completamente, è ordinario di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, è presidente del comitato etico di Banca Etica, editorialista di Avvenire, direttore di benecomune.net, ha scritto libri come Il mercato siamo noi, Oltre l'homo economicus, e da qualche settimana per le edizioni EMI è in libreria il libro C'era una volta la crisi, un paese in emergenza, le ragioni per sperare. Allora io partirei proprio da questo libro. Abbiamo già parlato appunto del voto con il portafoglio, che è una delle ragioni che elenca Becchetti, cioè dare più responsabilità alle persone per sperare. Quali sono le altre ragioni per sperare, Becchetti? Ma se parliamo dell'Italia e non dell'universo mondo, io credo che il problema fondamentale del nostro paese, che si trova tra l'altro oggi nella situazione più difficile a livello mondiale, perché il PIL mondiale sta aumentando, la regione più in difficoltà è il sud d'Europa, ci sono tre cose fondamentali che purtroppo l'Europa non sta facendo e che non dipendono tanto da noi. Quindi io capisco anche la frustrazione dei politici italiani, che subiscono la rabbia dei cittadini ma non hanno le risorse per poter rispondere. Io credo che la prima cosa fondamentale sia quella di una politica monetaria espansiva, cioè nella globalizzazione abbiamo un dividendo sociale che stiamo pagando, cioè siamo in concorrenza con i paesi poveri del sud del mondo che ci fanno concorrenza a prezzi stracciati, e questo mette in difficoltà le nostre economie. Poi possiamo però controbilanciare questo costo con il dividendo monetario della globalizzazione, cioè abbiamo la possibilità di stampare molta più moneta di prima, perché questa moneta non crea inflazione proprio per la concorrenza a basso prezzo dei paesi poveri ed emergenti, e questa moneta invece messa nelle tasche dei cittadini ha il potere di rilanciare moltissimo la domanda interna dei paesi. Questo è quello che stanno facendo gli Stati Uniti, il Giappone, lo stesso Regno Unito, è quello che l'Europa non sta facendo fino in fondo, perché è un po' a metà del guado. Draghi, che sta cercando in tutti i modi di fantasia e creativi fare qualcosa del genere, in realtà non può che dare soldi alle banche, ma le banche poi a loro volta questi soldi li usano fondamentalmente per operazioni di trading o speculative. Ecco che per chiudere il cerchio ci vorrebbe una politica monetaria stile Fed, quindi che direttamente, questo ha come obiettivo quello della riduzione della disoccupazione, cosa che negli Stati Uniti sta riuscendo, e poi per chiudere il cerchio ci vorrebbe una riforma della finanza, perché altrimenti questa liquidità viene pompata in un acquedotto che perde e va alle banche, che la usano per far risalire la borsa ai massimi, ma non va ai cittadini e alle imprese. Quindi ci vuole una riforma della finanza. Anche qui gli Stati Uniti stanno procedendo con grande rapidità, per esempio dopo la lentezza post crisi, per esempio hanno varato da poco la Volcker Rule, cioè una regola che proibisce alle grandi banche di fare trading proprietario, quindi le riporta in un certo senso a quello che è il loro business originale, che è quello di fare credito, prestare soldi all'economia e alle imprese. Ecco, se noi riuscissimo in Europa a mettere assieme una politica monetaria veramente espansiva e volta alla riduzione della disoccupazione, che mette soldi nelle tasche dei cittadini senza la paura dell'inflazione che oggi è praticamente debellata, e una riforma della finanza che impedisce agli intermediari di fare speculazione, di fare cose diverse dal prestare alle imprese, con una politica fiscale espansiva dove i tedeschi usano il surplus che hanno per rilanciare l'economia a livello europeo, a quel punto io sono sicuro che tanta rabbia dei cittadini nei confronti dell'euro sarebbe superata e l'euro non sarebbe più in rotta di collisione. Sfruttando le occasioni appunto positive dell'euro, proprio nel libro C'era una volta la crisi, parla di una crescita sostenibile contro il declino dell'Italia, però l'Italia deve anche fare qualcosa in proprio, soprattutto a livello di efficienza dello Stato, perché una maggiore spesa pubblica inefficiente aggraverebbe i problemi invece che risolvere. Questo assolutamente, io credo che lì c'è un benchmark molto interessante, che è quello della Confartigianato, che qualche tempo fa scrisse questi 50 spread tra l'Italia e la Germania, cioè il sistema paese italiano è lontano dalla frontiera dell'efficienza rappresentata dai sistemi del nord Europa, in particolare su una serie di indicatori molto precisi, la lentezza e la burocrazia nella pubblica amministrazione, i ritardi della giustizia, no? Una causa civile che dura molto di più che negli altri paesi, quindi non dà certezza ai diritti proprietari e agli imprenditori, il ritardo nelle infrastrutture della banda larga, il ritardo di istruzione, quindi noi abbiamo tutto nella corruzione, abbiamo tutta una serie di cose che ci impongono di fare i compiti a casa, però non dimentichiamo, e questo io credo che molti non lo considerano, non dimentichiamo che la pensare di risolvere il problema anche del debito pubblico riducendo la spesa tout court può avere delle controindicazioni. Un euro in meno di spesa è comunque un euro in meno di domanda interna. Che poi quest'euro riesca ad essere ridato veramente a quei cittadini che lo spendono sul mercato interno, alle imprese che lo investono, è tutto da dimostrare. Purtroppo oggi invece, se guardando solo a rigore, bellissimo qualche tempo fa, c'è chi ha detto che l'Unione Europea è ossessionata dai decimali e che ha mal digerito alcune ricette sul rigore, pensare che il rigore da solo faccia ripartire l'economia, questo purtroppo è stato un errore che è molto doloroso, che ci ha portato indietro, perché solo il rigore produce una riduzione della domanda interna e produce quindi una contrazione del PIL che più che compensa i tagli di spesa che sono stati fatti. Ecco, quindi in realtà noi stiamo vedendo che altri paesi stanno volando vicino a noi e hanno scelto delle strade completamente diverse dalle nostre. Ecco, questo quantomeno dovrebbe far riflettere chi ha adottato in toto quest'idea del rigore espansivo. Ecco, ma in questa prospettiva che cosa possono fare i cittadini? Poi tornare un po' a quello che è stato l'inizio del nostro dialogo, il voto col portafoglio. Che compito spetta a ciascuno di noi, in fondo, professor Becchetti? Io penso che un compito fondamentale, prima della globalizzazione esisteva un equilibrio di poteri alla Montesquieu, cioè c'erano le imprese, diciamo, puntavano a massimizzare il profitto, i cittadini consumavano ciò che costava meno e le istituzioni avevano la forza per mettere le briglie al sistema, mettere quelle regole che consentivano poi di trasformare questa energia anche in bene per la collettività. Oggi questo equilibrio è saltato perché con la globalizzazione le imprese si muovono su scala mondiale, vanno a cercare i paesi dove il lavoro costa meno, dove le regole ambientali magari sono meno forti e le istituzioni sono rimaste nazionali, quindi non hanno la forza per imporre regole. Ecco, quindi salta, voglio dire, il primo principio dell'economia stessa liberale. Ricordiamoci che l'economia liberale dice che la maggioranza alla fine ha la meglio rispetto a una minoranza, alla minoranza di una lobby che vuole, diciamo, imporre il proprio potere di mercato. Alla fine la maggioranza vince e impone l'interesse generale. Ecco, questo equilibrio non c'è più. Pensiamo a tutta una serie di settori, anche nel nostro paese, il settore dell'azzardo, il settore appunto dell'oligopolio delle big banks a livello mondiale. C'è un problema, proprio da un punto di vista di economia liberale, di riequilibrio dei poteri, di riequilibrio dei rapporti di forza tra la società nel suo insieme, l'interesse generale e l'interesse delle lobby. Ecco, mi sembra e che lei calato con i cittadini. Devono ridare la forza alle istituzioni votando col portafoglio, perché possono, siccome il mercato fondamentalmente è fatto di domande e di offerta, noi siamo la domanda, e se noi non compriamo, se noi non risparmiamo, se noi, direi meglio, se noi andiamo a premiare quelle imprese che hanno più fantasia, che sono più creative nel mettere assieme la capacità di creare valore economico con la sostenibilità sociale e ambientale, noi diamo un indirizzo formidabile al mercato per andare nella direzione che vuole andare, cioè quella della produzione di progresso e bene comune. Ecco, questa riflessione proprio sul fatto di scegliere, di fare delle scelte responsabili anche all'interno, soprattutto all'interno del mercato, mi sembra fondamentale. E tra l'altro lei è protagonista anche di un'esperienza che mi pare che si chiami Slot Mob, proprio riferita al gioco d'azzardo. Incontri. Ancora con un brano dedicato a Nelson Mandela, questa volta dei Simple Minds, riprendiamo il nostro incontro con il professor Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, presidente del comitato etico di Banca Etica, editorialista di Avvenire, autore di numerosi libri, tra cui nelle ultime settimane c'era Una volta la crisi. Con il professor Becchetti abbiamo parlato nella prima parte appunto delle possibilità di uscire dalla crisi attuale, soprattutto riformando le banche, riformando il sistema finanziario, con una politica monetaria maggiormente espansiva da parte dell'Europa, ma anche con una responsabilità di scelte responsabili da parte dei cittadini. E avevo citato un'iniziativa che il professor Becchetti insieme ad altri sta portando avanti, riferita al gioco d'azzardo, che si chiama Slot Mob. Di cosa si tratta, professor Becchetti? Ma è stata proprio una dimostrazione pratica di come il voto col portafoglio può cambiare le cose. A un certo punto molti lamentavano il fatto che in Italia l'azzardo si era espanso moltissimo, che tutti i bar cominciavano ad avere al proprio interno slot machine, e noi abbiamo semplicemente voluto fare un atto, una dimostrazione culturale. Abbiamo portato centinaia di ragazzi all'interno dei bar che avevano deciso di togliere le macchinette o di non metterle, e in questo modo noi non abbiamo voluto punire nessuno, abbiamo voluto premiare quei bar che secondo noi erano i migliori in questo settore. Abbiamo voluto dare un segnale, abbiamo voluto votare per quei bar, premiarli dal punto di vista anche economico, andando a consumare in quei bar, non perché siamo talebani o vogliamo che non esistano più case da gioco eccetera, ma perché, tornando al principio liberale di prima, pensiamo che una lobby abbia occupato troppo spazio, che sia veramente degradante, non abbia senso il fatto che in ogni bar ci siano delle macchinette e la gente vada lì a rovinarsi anche in un posto come un bar, e non vogliamo che un giorno le macchinette, lo dico per assurdo, ce le troviamo per forza in camera da letto o in casa, e quindi abbiamo voluto dare questo segnale. Questo segnale ha avuto una forza culturale enorme, questo piccolo segnale. Infatti da allora molte amministrazioni locali hanno trovato il coraggio per fare delle leggi secondo me molto intelligenti, delle leggi dove fiscalmente penso alla regione Lombardia, si premiano i bar che non mettono le macchinette e si fa pagare un'IRAP maggiorata ai bar che invece le mettono, un'IRA che incorpora il principio della costo dell'esternalità sociale che il gioco d'azzardo produce sulla società, producendo gioco patologico, quindi producendo qualcosa che poi è un costo anche per la pubblica amministrazione, perché è una vera e propria patologia che va curata. Credo che anche questo è stato un segnale ancora più importante, perché noi vogliamo dire una cosa: il mercato non va lasciato a se stesso, in quanto non produce una scala di valori che è proprio quella che noi cerchiamo. Infatti c'era un economista geniale che si chiama Tibor Czytoski che parlava dei beni di comfort e beni di stimolo, no? I beni di stimolo sono quelle abilità che faticose che si conquistano con l'investimento e che ci rendono la nostra vita felice: imparare una lingua, studiare, imparare uno sport, il progresso. Dall'altra parte abbiamo i beni di comfort, sono quei beni che a breve ci danno una gratificazione ma che poi possono creare delle dipendenze se consumati in maniera compulsiva. Ecco, chiaramente il mercato lasciato a se stesso tende molto più verso il bene di comfort che verso il bene di stimolo, è chiaro, perché il bene di comfort produce una domanda assicurata producendo dipendenza, e la pubblicità sui beni di comfort con la rete diventa sempre più aggressiva. Tutti voi avrete avuto l'opportunità di vedere sul vostro iPhone comparire all'improvviso pubblicità di beni di comfort in maniera anche aggressiva, o siti che si aprono senza che voi abbiate voluto aprirli. Quindi questo è un po' il problema. Allora noi abbiamo voluto dire no, noi vogliamo, col nostro voto, col portafoglio, vogliamo una scala di valori diversa. E ripeto, questo gesto, che sembra in apparenza molto semplice, molto banale, molto debole vorrei dire, in realtà ha provocato una specie di rivoluzione culturale, perché oggi ad oggi, diciamo, decine e decine di città continuano a organizzare continuamente questi mob, sta diventando qualcosa di molto popolare e molte amministrazioni locali hanno cominciato a varare nuove regole. Anche qui si tratta di contenere, ripeto, nessuno vuol fare il talebano, nessuno vuol cancellare un settore dall'economia, ma però certe cose devono essere riequilibrate. Non è possibile che uno Stato, per esempio, non riesca a riscuotere la multa dalle uno Stato che è concessionario, tra l'altro, del gioco, quindi potrebbe staccare la spina, non riesce a riscuotere la multa che la Corte dei Conti ha impartito alle concessionarie per evasione fiscale e deve poi rifarsi chiedendo, aumentando la benzina, perché non riesce a riscuotere la multa. Ecco, quindi anche qui io credo che uno Stato più coraggioso e meno timido nei confronti delle lobby potrebbe sicuramente recuperare prestigio e consenso e ridurre anche la rabbia popolare che qualche volta purtroppo scoppia. Sì, quindi una partecipazione popolare che abbia dei valori di lungo periodo, non solo di immediati sul fronte del mercato, e che guardi anche alla possibilità di inserire nel mercato dei valori, appunto, di partecipazione, di solidarietà, di lavoro volontario. Come vede queste prospettive? È qualcosa che si può pensare che possa aiutare anche una crescita effettiva, una crescita non solo in quantità ma anche in qualità della dimensione sociale? Io sono molto ottimista, perché se guardiamo al breve periodo certe volte prevale lo scoraggiamento, ma se guardiamo al medio e lungo termine l'umanità fa dei progressi spettacolari. Non dimentichiamo, guardavo l'altro giorno un bellissimo documentario su Rai Storia, che 100 anni fa eravamo nelle trincee della prima guerra mondiale, no? Da allora, se confrontiamo la vita di allora con la vita di oggi, siamo quasi dei semidei oggi. E allora le cose possono cambiare, soprattutto quelli che ci sembrano dei muri indistruttibili, in realtà l'azione proprio dei cittadini, l'azione sociale come quella di cui ho parlato all'inizio, li sgretola piano piano e a un certo punto questi muri crollano di schianto. Così è successo con l'apartheid, così è successo col muro di Berlino. Io sono sicuro che sta nascendo questa nuova economia, ne sono sicuro proprio perché il voto col portafoglio, che la sta costruendo piano piano, non richiede grandi dosi di altruismo. La gente ha cominciato a capire che è possibile, che deve votare col portafoglio anche per il suo interesse, cioè ha cominciato a capire con il problema di Prato, del Rana Plaza, che l'insostenibilità sociale è qualcosa che la paga chi lavora in quelle condizioni, ma la paghiamo anche noi in termini di localizzazione, no? Di concorrenza, del basso costo del lavoro. Abbiamo capito che l'insostenibilità ambientale non è solo il tifone nelle Filippine, ma arriva a lambire anche le nostre regioni, le nostre città, e quindi l'autointeresse lungimirante io credo sarà la grande forza che spingerà sempre più i cittadini a voler sapere cosa ci c'è in un prodotto, a usare le tecnologie che oggi ci sono, penso appunto a applicazioni che ci dicono come è fatta la filiera, a capire se un prodotto viene da una zona dove sono stati sversati dei rifiuti tossici oppure no. Quindi l'interesse sarà sempre maggiore ad agire in questo modo, e quindi piano piano questo costruirà un'economia diversa che andrà misurata in modo diverso, perché il valore e la ricchezza di un territorio è lo stock dei beni economici, culturali, spirituali, sociali, eccetera, e che creerà valore economico, ma un valore economico che sarà più socialmente e ambientalmente sostenibile. Credo che questa è anche la sfida del nostro paese. Se io fossi un imprenditore oggi in Italia sarei ossessionato da questo: cos'è che posso produrre e che non può essere rifatto a costi 5 volte inferiori in un altro paese, sicuramente non una commodity standardizzata, certamente invece un prodotto che è legato a quello che io chiamo il genius loci del nostro territorio, no? Quella ricchezza che non è delocalizzabile, che non è esportabile, che è fatta da quell'insieme di cultura, tradizioni, territorio, qualità ambientale, qualità artistica. Bisogna riuscire a mettere questo genius loci dentro i prodotti, ma non parlo solo di turismo, parlo per esempio anche di prodotti artigianali, di prodotti agricoli, che però facciano parte di filiere DOC, DOP, che sfruttino, no, la genialità, la qualità del territorio. Quindi, valore aggiunto che può dare appunto una realtà come quella italiana, di genialità, esatto, di capacità, di bello e di fare le cose bene e ben fatte. Ecco, c'è una riflessione molto, molto interessante che lei pone in conclusione del suo libro, proprio nell'ottica e nello scenario della libertà. Dice: esistono 3 forme di libertà, la libertà di, la libertà da, di cui si è discusso e si discute molto, però c'è anche una terza libertà, è la libertà libertà per, la libertà per, e scrive, intendiamo la decisione volontaria di colui che sceglie di dedicare le proprie energie a un obiettivo ideale in grado di mobilitarlo, e che sarebbe anche il vero segreto della felicità. Quindi anche un economista può parlare di felicità, professor Becchetti. Assolutamente sì, questo discorso delle tre libertà riporta molto al tema appunto dei beni di comfort e dei beni di stimolo, no? Cioè pensare che la libertà sia libertà di potrebbe essere un ubriacarsi di beni di comfort, subire poi pensando di essere liberi, finire invece in una dipendenza patologica che in pratica limita le nostre libertà da e limita le nostre libertà per. Io credo che invece la felicità, ma non è una mia opinione, lo vedo anche dai dati, la felicità dipende da altro. Io credo che un simbolo incredibile di quello che può essere il discorso della felicità è una persona come il pilota Zanardi e la sua storia, una storia particolare, no? Sappiamo un pilota di Formula 1 che ha un medio pilota di Formula 1 che a un certo punto ha un grave incidente, perde tutte e due le gambe, ma da lì parte una nuova vita, diventa un atleta paralimpico, un campione italiano, un esempio, è quello che fa sfide, quella trasmissione è molto bella sulle sfide sportive. Ma qual è il punto? Lui ha massimizzato le tre cose che secondo me sono fondamentali nella libertà per e nella felicità di una persona, cioè da una parte la relazionalità. Lui ha anche una ONG che lavora per portare ad altri anche gli ausili tecnici per poter vivere bene anche in situazioni di disabilità. Dall'altra è una persona che ha saputo trasformare la tragedia, e tutti noi abbiamo limitazioni e cose che ci capitano, in una nuova opportunità, e l'ha trasformata in una sfida. Quindi se dovessi sintetizzare in due o tre parole quello che gli studi della felicità ci dicono come l'uomo può essere felice, sono questi: avere una sfida, darsi una sfida, mettere l'asticella non troppo bassa né troppo alta, perché altrimenti la sfida non è stimolante o diventa frustrante, e massimizzare quello che è la nostra natura di persona, di relazionalità, quindi la nostra generatività in termini relazionali per i nostri simili. Ecco, io credo che se le persone che hanno risolto questo, ce lo dicono i dati, ce lo dicono alcune storie interessanti come quella di Zanardi, sono persone che veramente hanno colto, secondo me, il segreto della soddisfazione di vita e della generatività della nostra vita. Possiamo guardare, proprio per concludere con una battuta, professor Becchetti, a questo 2014 come qualcosa che ci potrà dare anche uno scenario maggiormente positivo in cui credere e in cui mettere un po' della nostra speranza? Ma io sono convinto di sì, e terapeuticamente quando ci lamentiamo per quello che non va o che ancora non va, io consiglio appunto, riguardiamoci qualche film di come si viveva 50-100 anni fa, e ricordiamoci del cammino enorme che l'umanità ha fatto fino ad oggi, e quindi viviamo anche con più serenità, ma senza perdere lo spirito, certo, combattivo e battagliero che ci spinge a continuare a lavorare, perché diciamo non solo noi vogliamo indicare quello che è l'orizzonte, ma vogliamo anche costruire giorno per giorno le strade che ci portano laddove intuiamo dobbiamo arrivare. E ci sono molte ragioni per sperare. Grazie professor Leonardo Becchetti di essere stato con noi questa sera. Ricordo, Leonardo Becchetti è professore di economia presso l'Università Tor Vergata di Roma. Ringrazio anche, oltre a quanti ci hanno ascoltato, Valeria Bernardi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.